Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. È un punto importante, quanto pesa? Pesa un punto. Avevamo 7 punti di vantaggio, ora ne abbiamo 8. E quindi un po' più tranquillo. Ah, sai, tranquillo. Ora c'è un proverbio fiorentino e non ti posso dire. Non lo finisce. La conosciamo, lo sappiamo. Come finisce. Non ha fatto una bellissima fine. Esatto. Possiamo chiudere no, così. Vi poteva andare meglio. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ancora Muriel, palla larga, Malinowski si coordina, Malinowski! 2-1 Atalanta! 2-1 Atalanta! Al minuto 80! La transizione perfetta! E Malinowski l'ha messa dentro! Palla in mezzo, Gollini con i pugni allontana, non è finita! La deviazione, calcio di rigore per l'intervento di Muriel! Parte Ronaldo col destro e fa 2-2, stesso lato del rigore precedente, freddissimo Ronaldo. Siamo riusciti in tutto quello che erano i nostri intenti, poi ogni partita ha una storia a sé, però io esco da questa partita chiaramente molto, molto contento della prestazione, molto dispiaciuto di non aver vinto, perché insomma un minuto alla fine c'erano tutte le condizioni e i meriti per vincere questa gara. Credo che a livello mentale le energie le possiamo recuperare se la matematica ci darà la vittoria con qualche giornata di anticipo. Adesso noi dobbiamo pensare a mercoledì senza fare i calcoli. Una volta che la matematica ci darà lo scudetto, allora lì potremo gestirci. Adesso è soltanto un momento di continuare a pedalare. Eccoci qui ragazzi, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e whatsapp a convocazioni aperte da qui alle 19. Sui 1000 temi lasciati in eredità da Juventus-Atalanta che abbiamo visto ieri sera e che è stata una grandissima partita, purtroppo oggi nel dibattito, nei bar sport, racchiusa negli episodi arbitrali, affronteremo la questione rigori, uno dei temi lasciati in eredità da ieri sera. 17:35 vi annuncio già con Luca Marelli VAR Anatomy, vi aspetto perché voglio sapere anche cosa ne pensate. 800 24 00 24. Poi c'è il rimpianto dell'Atalanta per quello che poteva essere e non è stato, che estendo anche a Lazio e Inter, che credo in questa settimana sbattano la testa contro il muro immaginando come avrebbero potuto rientrare in una corsa a scudetto. Poi ci sono i dubbi sulla Juventus, vista ieri sera, ormai a un passo dal nono scudetto consecutivo, ma anche a meno di un mese dal ritorno della Champions League. Poi vi annuncio anche alle 18:05 il processo alla Ferrari per il disastro visto allo Spielberg, di cui abbiamo parlato nei notiziari. Poi seguiremo Genoa-Spal in campo fra 5 minuti, tutto il resto del programma della 32esima giornata. Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Saluto anche Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ci sveli come finisce quel detto fiorentino a proposito di tranquillo? No, io a Roma mi dice tranquillo, ha fatto una brutta fine. Io fra l'altro mi sono anche permesso di dire che bisogna evitare anche lo stai sereno, perché sai, sì, che ultimamente sì, anche sì, stai sereno non porta benissimo. Non lo posso dire la versione fiorentina non è radiofonica, però insomma diciamo il concetto è sempre quello che tranquillo fa una brutta fine, ecco. Però Sarri può stare tranquillo, Sarri può stare tranquillo perché il risultato di ieri sono soprattutto le altre, cioè la verità è che noi una settimana fa in tutti i convocati weekend voi avete chiesto, il campionato è chiuso, dopo ricordiamo Lazio Milan e Juventus Torino, ho detto diamo un'altra settimana al campionato perché vediamo la Juve in queste due grandi partite con Milan e Atalanta quanti punti farà. La verità è che ha fatto un punto, dopo una settimana ha aumentato le probabilità, quindi la vera notizia di questa settimana è stata il sciapanò delle altre, in particolar modo della Lazio, che si è completamente, e non me l'aspettavo, inabissata dal punto di vista fisico, francamente non era una cosa che pensavo sarebbe successa. E poi c'è anche l'Inter, che insomma, fra Inter Bologna, che una settimana fa a quest'ora stavano giocando, e il pareggio di Verona ha buttato via un campionato, dai, diciamo, io ho questa impressione. No, certo, però insomma, si può anche giocare meglio di quello che ha fatto l'Inter, ma avremo tempo anche per aprire la pagina sull'Inter. Ha buttato via l'occasione per potersela giocare fino alla fine, come del resto anche la Lazio, poi magari lo vinceva la Juve ugualmente. Però, ma io sono convinto, adesso allargo anche a Max Nerozzi, inviato del Corriere della Sera, che saluto, ciao Max. Ciao. Sono convinto, Carlo, non so cosa pensi tu, che la Juventus lo scudetto l'avrebbe vinto anche perdendo ieri sera, perché poi tutti ragionano sui 6 punti in cui si sarebbe trovata l'Atalanta, in realtà insomma col 2-1 i punti erano 7, perché poi vale anche il punticino grattato via col doppio scontro diretto, e la Juve aveva vinto a Bergamo per 3-1, però resta questa grande impressione, insomma, io non ricordo negli ultimi anni quante volte la Juventus si è vista così sotto. Carlo, Max? No, di sicuro, ma la sensazione è che insomma ieri sera si siano affrontate le due più forti squadre italiane, e l'aspetto è che chi rincorreva la Juventus prima della sosta si è squagliato, mentre l'Atalanta si è trovata lì in una condizione pazzesca, quando ormai era tardi, perché il distacco non è recuperabile, quindi avrebbe vinto lo scudetto e vincerà lo scudetto, avrebbe vinto anche perdendo ieri sera, perché i punti sono troppi, lo vince un po' a motore spento, deve guardare alla Champions e a fare certamente molto meglio. Max, guarda, il secondo tempo è stato un po' diverso, però chiudendo in Svizzera al primo tempo, vista dal vero, io ricordo una impotenza della Juve, ma facendo fatica a uscire anche dalla propria area, come con Bayern di Heinz e con Bayern di Guardiola il primo tempo qua. Altre volte veramente io faccio fatica a ricordarmi allo stadio. Ma quindi deve stare tranquillo o no Sarri adesso, al di là della contabilità dei punti? Secondo quella me siamo sì, più o meno tutti secondo d'accordo. Secondo me sì, perché non ci sono altre Atalante in campionato. E nel senso che con le altre squadre, la Juve lo dicevi tu anche domenica scorsa, cioè quando un po' il campo si allunga, le squadre si allargano, oggettivamente Ronaldo, Dybala, Douglas Costa un po' di differenza la fanno, e quindi la Juve per me questo vantaggio lo gestisce con più automatico. Ma il paradosso, e ieri l'ho chiesto anche a Gasperini, che pure l'Atalanta ha i suoi rimpianti, perché poi ieri mentre preparavo la partita sono andato a rivivere mentalmente la stagione dell'Atalanta, che pure insomma ovviamente deve essere orgogliosa di tutto quello che ha fatto, però ha buttato dei punti nella prima parte della stagione abbastanza incredibile, ha perso in casa col Torino, ha perso in casa con la Spal alla prima giornata di ritorno, ha perso a Bologna subito dopo un passaggio chiave della Champions League, cioè secondo me ha pagato dei punti che oggi pesano. Poi Gasperini si concentra di più sugli scontri diretti, però insomma Gasperini ti ha risposto in maniera un po' velenosetta, eh? Sì, quando sì, parlando ci hanno impedito di fare diretti, pensava esatto, agli scontri esatto. diretti, vogliamo dire pensava a che cosa pensava. Secondo me pensava a Lazio-Atalanta al rigore di San Siro contro l'Inter, e pensava ad Atalanta-Juventus, perché poi parleremo della questione arbitrale, ma è quella la partita dove ci sono stati degli episodi. Prego Max. No, scusami, il problema è che l'Atalanta è una squadra, non è una squadra convenzionale, cioè fa molta fatica a gestire i punteggi, e questo come ha pagato sulle altre, e dopodiché ha pregi e difetti, cioè ieri sera non sembrava giocare prima con due wide receiver dell'NFL, cioè Castagne e Atebur non li tenevano nessuno, cioè Atebur nel primo tempo, alla fine del primo tempo, poi Pardo c'era sopra di me, c'è stato un lancio di insomma era fuori misura clamorosamente, cioè Atebur l'ha preso, ha piannato in velocità Danilo e l'ha messa in mezzo. Il primo tempo è stato clamoroso. E Castagne è una riserva, Sì, e Castagne è una riserva. Carlo, vai. Sono le riserve. che è uno che ha fatto 10 gol in stagione, quindi ci ha avuto anche sfiga. Ha fatto il record, sì, l'Atalanta ha fatto, detiene attualmente il record dei gol da subentranti. Davvero è una squadra dell'NFL o di basket, perché le rotazioni non sono a 11. Almeno a 16. Hai ragione quando dici che ha avuto dei rimpianti, però bisogna considerare l'Atalanta non pensava, ovviamente è un lavoro meraviglioso in costruzione, di essere in questo momento, altrimenti probabilmente avrebbe vissuto un'altra prima parte di campionato. In questo momento è la più forte squadra italiana, secondo me ha ragione Balzaretti, che cominciando il post partita di ieri dice: se l'Atalanta decide un po' va deciso mentalmente, va deciso con la programmazione, se decide l'anno prossimo di provare a giocarsi lo scudetto. Voglio dire, perché no? Magari due paio di giocatori li può anche vendere, perché secondo me avrà già identificato le alternative, ma onestamente perché no? Perché non ci può pensare a questa soluzione? No, ma io prima di arrivare all'anno prossimo, adesso poi ci fermiamo per il traffico, ma ci teniamo Max Nerozzi, poi avremo anche Bortolo Muti per parlare dell'Atalanta. Io mi butto in là tra un mese, mentre io continuo ad avere grandi dubbi sulla Juventus, perché dopo un anno di Sarri io trovo comunque particolare anche la prestazione fatta ieri. Io non so fra un mese se le cose girano come stanno girando adesso, se davvero l'Atalanta non può immaginare di fare qualcosa di meraviglioso in Champions League. Però abbiamo tempo di pensarci un minuto, c'è il traffico, poi ne parliamo. Intanto è partita Genoa-Spal, da 30 secondi 0-0 il parziale, e seguiremo e vi daremo gli aggiornamenti. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Io credo che lo scudetto non aveva più storia, però insomma per noi era comunque una gara di grande prestigio, come ho detto prima, un modo di testarci e misurarci anche per quella che sarà la Champions, dove vogliamo comunque fare bella figura, sapendo che la competizione è ancora molto molto più difficile del campionato. Max Nerozzi, Corriere della Sera, ma secondo te la Juventus è pronta per la Champions? No, non è ancora pronta. Penso che la Juve speri di vincere lo scudetto un po' prima, e così si concentra meglio, ripulisce un po' le scorie mentali, ma soprattutto un po' fisiche. Insomma, avrebbe bisogno come il pane di Ramsey, per esempio, che non ce l'ha quasi mai avuto. Che dirà idem, ed erano i due giocatori di cui aveva più bisogno Sarri. Se tu guardi ieri, Betancourt ha fatto una buonissima partita, tranne le disattenzioni sui gol al posto di Pjanic, ma non c'è nessuna mezz'ala della Juve che si inserisca. Fai conto dei gol, all'appello mancano quelli di centrocampisti, perché Ronaldo sta segnando più dell'anno scorso, è arrivato a 28 gol in campionato. Dybala sta facendo bene. Sì, l'ultima quella quota lì fu Tevez, 29 gol stagionali, Ronaldo già aveva 32, però non ha gol dai centrocampisti, e invece Sarri, sarismo o meno, ha sempre avuto quello nelle sue squadre, e quello è un problema. Cioè. Carlo? Sì, potrebbe sparigliare magari Rabiot, che se è quello che abbiamo visto con il Milan, che ha fatto un gol alla Kakà, quindi quello potrebbe essere un valore aggiunto. Non è pronta la Juventus, io insomma tra le due vedo più agevole il cammino dell'Atalanta verso una finale, perché se l'Atalanta sta in queste condizioni, visto il calendario, visto le avversarie, è molto più facile, sì, molto squilibrato il tabellone. Ad oggi non c'è partita tra le due squadre, si è visto ieri. Poi la Juve, secondo me, l'aveva riconosciuto, ha avuto il merito, poi vedremo gli episodi, ma insomma c'è poco da discutere sugli episodi, si può discutere sulla filosofia, e l'ha fatto ieri Gasperini di questi calci di rigore, lo facciamo più o meno dall'inizio dell'anno, ma insomma nello specifico non credo ci siano grandi dubbi. Devo dire, la Juve ha avuto il merito, secondo me, di stare in partita, di stare mentalmente in partita, e il risultato ha sempre una sua verità. L'Atalanta veniva da 9 vittorie consecutive, non è che ha vinto 9 partite con 5 gol di distacco, ha giocato delle partite anche abbastanza equilibrate. Mi ricordo per esempio l'arrabbiatura di Gattuso dopo Atalanta-Napoli, Napoli non aveva giocato una cattiva partita, quindi il fatto della Juve di essere riuscita comunque a tirar fuori il risultato in questa situazione è un dato. Per il resto, se parliamo del gioco, se parliamo della qualità in questo momento anche dei singoli, insomma non c'è partita. La Juve vive del talento di Dybala, che si vede che sta bene, della condizione di Cristiano Ronaldo, che comunque sta facendo tanto, 18 gol in questo 2020. No, ma la Juve vive di episodi, e lo dico in maniera bonaria, perché poi parleremo della questione arbitrale, io la penso esattamente come te. Però ieri sono stati due episodi totalmente estranei anche l'andamento in quel momento della partita, no? Max, tu dici il secondo tempo è stato diverso dal primo. È vero, però ad esempio dopo il 2-1 di Malinowski era nuovamente una partita completamente diversa, scivolata via. Possesso palla e superiorità territoriale sono tempo meglio, dai. Juve secondo tempo ha giocato una partita discreta. Ma ragazzi, anche perché peggio dei primi 30 minuti era difficile, c'era una squadra in campo. Però hai detto bene, cioè anche in quella situazione lì l'Atalanta in un secondo tempo più equilibrato aveva avuto sicuramente la capacità di ritornare in vantaggio, ma anche perché questa squadra è cresciuta. Io ieri l'ho sottolineato in telecronaca, mi sembra una delle cose che si dice di meno, questa squadra ormai ha una rosa profondissima, cioè non ci sono molte squadre in Italia che hanno la possibilità di fare una rotazione Zapata-Muriel come quella che fa l'Atalanta, di far entrare Malinowski e dargli mezz'ora di partita, o di far riposare Gomez e fargli fare delle rotazioni. Cioè, questa cosa qui, secondo me, è un po' taciuta, ed è un altro elemento fondamentale. E anche qui il merito di Gast, perché poi alcuni giocatori sono diventati quello che sono oggi grazie al suo lavoro. Ma oggi veramente c'è una profondità della rosa che, secondo me, in Italia hanno un paio di squadre. Hanno pochi, no? Hanno pochi. Abbiamo scoperto da questa ripresa, qualcuno immaginavamo che ce l'avesse, ed evidentemente non ce l'ha. No, la Lazio è meno profonda. L'altra grande cosa di questo campionato, no? L'altra grandissima outsider, e alla fine leggo, ho visto lo sfogo di Ciro Immobile. Io capisco il tifoso e va bene tutto, però insomma, non bisogna perdere il senso. Il senso è che la Lazio sta giocando una stagione meravigliosa. Certo, la sta sporcando adesso, e se dovesse finire così avrebbe dei rimpianti, ma sta giocando una stagione meravigliosa. Se togliamo a questi ragazzi l'orgoglio, la fierezza di aver fatto una grande annata, secondo me commettiamo proprio un errore. Un errore concettuale. Aspetta Carlo. Allora fatemi salutare Max Nerozzi. Ciao Max, alla prossima. Ciao Max. Ciao. Sì, vai Max. Vai. Niente. No, Carlo giustamente diceva sulle gare secche con Atalanta che è un fattore, questo è un fattore. Io dico che il fattore per la Juve nelle gare secche è che sta ritrovando però gli uomini chiave. De Ligt, insomma, ieri al di là della fine del palco ha giocato una partita notevole. E Ronaldo e Dybala nella gara secca potrebbe essere molto scomodi per chiunque. Un saluto. Però posso dire una cosa, aspetta, un saluto Max, so che abbiamo il traffico, chiedo scusa. No, non abbiamo il traffico, abbiamo Bortolo Mutti che voglio introdurre per parlare dell'Atalanta. Sì, perché questo non è un tema di fondo, che dopo tutti questi mesi di Sarri, alla fine la cosa migliore di Sarri, ed è comunque importante, è che stanno ritrovando dei giocatori chiave come Cristiano Ronaldo, come Dybala, come De Ligt. È un po' poco, perché Sarri è stato chiamato lì per dare un senso di squadra, un senso compiuto che andasse oltre i singoli. I singoli c'erano pure con Allegri. È chiaramente un bicchiere mezzo vuoto, al di là della contabilità dei punti da cui siamo partiti, che deve lasciar sereno, almeno per quanto riguarda il campionato, Maurizio Sarri. Allora, saluto e ringrazio Max Nerozzi. Ciao Max. Ciao. Aggiornamento nono minuto da Marassi, 0-0 tra Genoa e Spal, partita fondamentale, Carlo, soprattutto per il Genoa che deve provare a tornare nella zona verde della classifica. Saluto già annunciato Bortolo Mutti. Ciao Bortolo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao mister. Ci stiamo chiedendo se Gasperini deve picchiare la testa contro il muro immaginando un campionato che poteva avere un epilogo diverso e non solo per la vittoria sfumata ieri. Ma guarda, magari qualche rimpianto potrebbe sicuramente esserci, però sta di fatto che ha costruito un'annata veramente strepitosa, per cui credo che ci sia grande orgoglio e soddisfazione per il percorso che ha fatto, per certe scelte anche a livello individuale, certi ragazzi che veramente si sono ritrovati, e per cui è un gruppo di una solidità incredibile. Ieri purtroppo episodi un po' così hanno veramente precluso quella possibile rincorsa che sarebbe stato forse il tema principale della chiusura del campionato nostro, però se secondo me è contentissimo, certo, certe cose se si incastravano diversamente magari eri ancora lì e forse ancora più vicino alla Juve, però per me deve veramente essere lodato e tutti essere contenti per questa Atalanta. Ma da allenatore tu adesso cosa faresti? Ti ammazzi per arrivare secondo o pensando a che cosa succede a partire da metà agosto? Comincia a programmare il sogno di andare a Lisbona per arrivarci veramente nelle migliori condizioni. Ma sicuramente mantenendo questa, diciamo così, mentalità alta proprio nel voler far gioco, nel voler essere il padrone della partita, come ieri sera aggredire alta la Juve, non fargli ragione, e cementare ancora questo stato mentale che è fondamentale per l'Atalanta, mette in difficoltà chiunque. Poi magari alzare la condizione di giocatori che ancora hanno bisogno magari di ritrovarsi un pochino, tipo Ilic che viene da un percorso un pochino tribulato, cioè rodare bene quei elementi che saranno fondamentali per fare la differenza. Ieri ha fatto una scelta molto importante, mettendo in campo le tre punte più importanti del suo organico, da Gomez, Zapata e Ilic, per vedere come il reparto difensivo e tutta la struttura difensiva poteva reggere contro la Juve, contro la prima della... l'esperimento, secondo me, la scelta è stata molto è riuscito alla grande. Però ecco, tra l'altro, mister, c'è un aspetto, venerdì Pierluigi mi sembra ha detto una cosa molto interessante, cioè le squadre italiane andando verso la Champions hanno un vantaggio importante sui competitor stranieri. Il fatto che noi il campionato comunque finisca più tardi, ma è già praticamente tutto deciso, avranno la possibilità di sparare in modo attivo con dei test probanti agonistici l'arrivo alla fase finale delle coppe. Può essere? Sì, sì, no, è vero, per cui c'è questo percorso da qui alle partite di Champions che veramente ti permettono di rodare, di migliorare certi meccanismi, sia la condizione fisica a livello individuale, sia di tutta la squadra, e certi atteggiamenti tattici che saranno importantissimi, perché partite secche devi giocarle in modo, veramente... su ritmi intensi, con grande attenzione difensiva, però devi mai rinunciare alla tua fase offensiva, per cui una mentalità e l'approccio giusto alla gara. Tanto c'è il Paris Saint-Germain, è una squadra sotto l'aspetto tecnico notevole, però non credo che loro, provo a fare una previsione, non prevedo un Paris Saint-Germain in grado di reggere, di correre con l'Atalanta, ecco, questa le stesse situazioni a livello agonistico, ma poi l'Atalanta mette sul piatto valori tecnici importanti che forse non sono stati esaltati in maniera dovuta, a parte i numeri stratosferici tra vittorie e serie positive e numeri di gol fatti, adesso anche la linea difensiva sta sicuramente un pochino migliorando, però è un dazio che paga l'Atalanta a volte a livello difensivo, perché è una squadra molto alta, i difensori centrali a volte partecipano addirittura alle ripartenze, per cui è un pedaggio che a volte deve pagare. No, ma io voglio dire questo, Bortolo, e poi ti salutiamo, se c'è una cosa che non capiterà, io credo non capiterà, che il Paris Saint-Germain sottovaluti l'Atalanta. Bastava farsi un giro questa mattina nei giornali francesi, per leggere che cosa scrivevano di Juventus-Atalanta proiettandosi su quel quarto di finale con il Paris Saint-Germain, e quindi questo non accadrà. Così come credo non accadrà che i parigini correranno più dell'Atalanta, soprattutto se l'Atalanta arriverà con questa condizione, con questa intensità. Allora ci dobbiamo fermare, io ti ringrazio e ti saluto, grazie Bortolo, alla prossima. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao, buon pomeriggio, quarto d'ora del primo tempo a Marassi, 0-0 tra Genoa e Spal, partita che fin qui non sta offrendo né occasioni né emozioni, ma è una partita molto bloccata dalla paura, oltre che dal caldo, perché a Genova è una giornata particolarmente calda. Noi ci fermiamo, poi come promesso, dopo un minuto di pausa arriva Luca Marelli con Var Anatomy e discutiamo degli episodi di ieri. 800240024, questo per intervenire in diretta, e cerchiamo di capire se ha ragione Gasperini a dire che succede così solo in Italia, se ha ragione chi oggi nei peggiori bar sport della penisola dice che la Juve ha rubato un pareggio e lo scudetto, o se ha ragione chi dice che in fondo, regolamento alla mano, ieri non è successo nulla di scandaloso. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. No, nettissimo. Non mi faccia così che mi smentisce. Grande rigore. Faceva, no. Importante. Importante. No, regolamento è questo. No, regolamento è questo in Italia soprattutto. Però Gasperini, se si dice questo è un'eresia, è ma comunque vabbè, no, oggi è capitata, no, è capitata contro e fine. I rigori così, avete detto voi quanti ne sono stati dati? Non so, in tutte le partite, contro tutte le squadre, quindi 50, io dico 50, sì. È una follia, c'è un'altra 4 anni fa, ecco, c'è un'altra interpretazione tale in qualche, uguale in qualche altro campionato del mondo, no? Allora, questo Gasperini ieri, microfoni di DAZN, abbiamo riconosciuto anche Pierluigi Pardo, al termine di Juventus-Atalanta. Luca Marelli, ciao, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Allora, se volete cominciamo dalla base, e cioè pigliamo i due episodi, il mani di De Ron che ha portato all'1-1 della Juventus e poi il mano di Muriel che ha portato al 2-2 finale, e cerchiamo di chiarire, Luca, se si tratta di entrambi i casi di calci di rigore o no, c'è insomma qualcosa da eccepire. Prego. No, c'è veramente poco da eccepire. Posso capire l'amarezza di non aver vinto una partita che attualmente era meritata, però contestare in modo così generico due episodi che sono oggettivamente piuttosto netti non mi piace. Il primo rigore è, sa che a me piacciono poco i paragoni tra episodi, però è esattamente identico al rigore assegnato in Lazio-Milan settimana scorsa. Semplicemente cambia la fascia, a Roma era la fascia destra, questa è la fascia sinistra. De Ron ha toccato il pallone con il braccio sinistro, che era quello che aumentava il volume corporeo, e il calcio di rigore era l'unica soluzione. Se Giacomelli non avesse fischiato, esattamente come Calvarese a Roma, il VAR sarebbe intervenuto, perché questi episodi vengono sempre punti. Sul secondo credo che non sia necessario. Sì, secondo molto più netto, anche se chiaramente un'assoluta ingenuità da parte di Muriel, perché il pallone stava uscendo verso l'esterno dell'area di rigore. Posso chiederti se, diciamo, nel silent check fatto dal VAR sul primo tocco di braccio di Daron, di fatto Errati abbia semplicemente controllato quale delle due braccia aveva colpito il pallone, perché se fosse stato il destro e non il sinistro, allora magari si poteva entrare in un ragionamento differente. Se il braccio colpito fosse stato il destro, non sarebbe stato punibile, perché in mancanza del braccio il pallone sarebbe andato sul petto o sul fianco di Veron. Avendo colpito invece il sinistro, questo è un rischio che il difensore si assume. Sa che perdendo anche parzialmente il controllo delle braccia può intercettare il pallone fuori sagoma e essere punito calcio di rigore. Proprio su questo punto volevo segnare questo. Non sono sicurissimo, però so che c'era questo concetto già nel 1994, quando ho cominciato. Il concetto di braccia fuori sagoma l'ho studiato al corso arbitri io nel 1994, perciò era stato inserito già prima. Poi si è evoluto in aumento del volume corporeo, ma alla fine il concetto sì, di base è cambiata quello. La definizione, ma sempre quel concetto è. Oh, intanto ha segnato il Genoa, 24esimo minuto del primo tempo, Genoa in vantaggio sulla SPAL per 1-0, la rete l'ha segnata Goran Pandev, tra l'altro anche un bel gol, un diagonale rasoterra sul secondo palo, e dunque Genoa in vantaggio. Oh, avete qualcosa da dire, Pier e Carlo? Sì, oppure allora, cerchiamo di capire se ha ragione d'ordine o no Gasperini. Vai, Pier. No, io ho una mozione d'ordine, io credo che qualsiasi discussione, poi è chiaro che nei bar si parla di complotti, questa squadra favorita piuttosto che l'altra, non so se parleremo anche di Lazio Sassuolo, la Lazio era la principale antagonista, classifica alla mano è ancora la principale antagonista, non so se vogliamo parlare già dell'episodio di Lazio-Sassuolo, per dire che ieri anche il Sassuolo si è lamentato, quindi voglio dire, i complottisti poi mi devono spiegare da che parte è il complotto, perché mi pare che una volta c'è un errore a favore di una volta c'è un'interpretazione, questo non è neanche un errore. Togliamoci via il dente, Luca, il gol annullato al Sassuolo all'inizio, quello su cui si è discusso anche tra VAR e arbitro, era da annullare o no? Molto discutibile. Sicuramente, guarda, possiamo anche discutere in linea teorica sul fatto che l'ultimo tocco sia stato di Parolo oppure di Gurabià, ma il concetto fondamentale è che il VAR non aveva nessuna certezza, come non ce l'ha nessuna neanche oggi, anche dopo aver visto mille immagini. Forse l'ha toccata Gurabià per il primo, ma in ogni caso, in questo caso, deve valere la decisione assunta sul campo e il VAR deve semplicemente confermare quello che è stato deciso sul campo, anche perché poi sul fatto che si tratti di una giocata di Parolo non ci piove, non c'entra nulla che sia un contrasto, che quello che volete, però l'ultimo tocco, da quello che si vede, mi pare chiaramente di Parolo, e con questo ha rimesso in gioco. Questo solo vedere. Per dire, dal mio punto di vista, che il gol era buono. Appunto, cioè, se c'è che parla di complotto a favore di una squadra piuttosto che di un'altra, mi sembra proprio di no. Ecco, cioè, ieri ci sono state delle azioni arbitrali. Ma te ne aggiungo un altro, la squadra, cioè, cerchiamo di fare una discussione un po' filosofica sì, sullo spirito del gioco. Questo secondo me è interessante ed è anche quello che ha detto Gasperini ieri, perché ieri Gasperini non ha contestato i due rigori, che ripeto ci sono, il secondo è netto, il primo secondo me ce l'aveva lì però lo sa e anche adesso io non ho la casistica, come sapete non sono appassionato di casi arbitrali, ma anche alla Juve sono stati fischiati, forse Lecce. Sì, ma la Juve ha avuto 10 rigori contro e solo per restare all'ultima settimana ce ne sono due per tocchi di braccio. Cerchiamo di fare un discorso al di là dei campanili dei quali non ce ne frega niente. Il discorso secondo me filosofico è un discorso giusto. Cioè, ieri sera Aldo Cazzullo, che tra l'altro è un simpatizzante juventino, credo che posso tranquillamente dire, che mi ha mandato un messaggio dicendo: certo, però, che così lo spirito del gioco. Ecco, questa domanda la facciamo dall'inizio dell'anno. Cioè, non è sì, che ce la siamo Carlo, ieri, sei d'accordo? Quello il punto. Ce la facciamo dall'inizio dell'anno. Secondo me, il punto è quello: non è i due episodi in fondo, chi se ne frega. Li ha interpretati perfettamente Luca Marelli, non c'è più nient'altro da dire. Il discorso è quell'altro che ha fatto Gasperini, cioè siamo l'unico campionato in cui succede e poi soprattutto Luca lo ha sottolineato più volte, il numero dei rigori che vengono dati da noi sta rasentando il comico. Ma è quindi così, Luca? Questa è una cosa su cui interrogarsi. Guarda, fammi dire che il complottismo è l'argomento di chi non argomenta. Secondo punto, oggi in Spagna è stato battuto il record di calci di rigore assegnati con 141, il record precedente era del 1928, perciò sono tutti luoghi comuni di persone che cercano una scusa o cercano un argomento non avendo un argomento tecnico da trattare. Sicuramente il VAR ha aumentato il numero dei rigori e questo si sapeva, perché il VAR vede episodi che non vengono visti dall'occhio umano. I tocchi di mano fanno parte di questa categoria, tant'è vero che i rigori assegnati con VAR sono veramente tanti, sono più di 30, ma è normale che sia così. Questi episodi, fino a qualche anno fa, fino a 4-5 anni fa, ha ricordato ieri in pari in telecronaca, nell'intervista di Gasperini di Star, che lui già l'ha ricordato, sono episodi che sarebbero rimasti nella moviola del lunedì, adesso invece fanno parte del VAR. E quindi diventano quasi automaticamente calci di rigore. Che è stato completamente... No, secondo me questa è la domanda, perché poi appunto giustamente Luca ha citato Lazio-Milan con Radu la settimana scorsa, nemmeno Radu ha protestato, la Lazio non ha protestato, anche quello è un episodio sul quale assolutamente lui sta girato dall'altra parte, viene colpito dal pallone e poi aumenta il volume e con l'interpretazione di oggi il rigore ci sta. Quindi io lasciamo perdere qualsiasi discorso su vantaggi o svantaggi, perché non mi sembra che ci siano evidenze da questo punto di vista. C'è la domanda sullo spirito del gioco. Allora, questo non lo diciamo dall'inizio dell'anno, Balzaretti l'ha detto dopo Lazio-Milan con Radu e l'ha detto ieri sera con De Ron, vale sempre, vale per De Ligt a Lecce, cioè forse una domanda dovremmo farcela, perché onestamente cioè, se vada in qualche modo riscritta la regola, mozzarsi le braccia, perché se no, in alcuni casi secondo me veramente si va contro lo spirito del gioco. Ma ripeto, adesso se ne parla tanto perché ieri era una grande partita, ma di cose così ne vediamo dall'inizio dell'anno. Sì, questo campionato è pieno di questi micro episodi. Luca, per chiudere, poi abbiamo il traffico. No, sono d'accordo. Ma quindi c'è da riscrivere qualcosa o no, almeno a livello di direttiva? Ci stavo arrivando. La questione non è tanto chiedere che ci sia una nuova disciplina. La questione è quale. Cioè, io non ho ancora sentito una proposta, perché l'unica volta che è stata veramente tentata una rivoluzione è stata nel 98 nei mondiali di Francia, cioè di fischiare qualsiasi tocco di mano in area di rigore. E ricordate Baggio in Italia Stile? Sì, ormai si mirava le mani. Esatto, quella direttiva è stata abbandonata in fretta e furia perché era stato un disastro. E questa, però le altre possibilità quali sono? Lasciare che in area di rigore i difensori possano saltare con le braccia che vadano ovunque, e allora prepariamoci a difensori che volutamente saltano con le braccia larghe. Per aumentare il famoso volume corporeo, in qualche modo comunque ottenerne la possibilità di un vantaggio. Grazie Luca. A voi, buon lavoro. Ciao, grazie Luca Marelli. Siamo un attimo in ritardo sul traffico. 31esimo, Genoa 1, Spal 0, il gol di Pandeval 24esimo. Arriviamo subito e parliamo della Lazio. I love this game. Tutti convocati. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. A luglio Alfa Romeo Giulietta arriva prima degli incentivi. Solo sulla pronta consegna, con il finanziamento FCA Bank hai fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione. Anticipo zero e prima rata gennaio 2021. Alfa Romeo Giulietta. Facile raggiungerla, difficile superarla. Iniziativa valida fino al 31 luglio, soggetta ad approvazione FCA Bank. TAN 675 TAI GOT 46. Info su alfaromeo.it. Convocati. Sempre 1-0 per il Genoa, siamo al 34esimo del primo tempo, Genoa 1, Spal 0, saluto Stefano Agresti, ciao Stefano. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Che oggi ha scritto della Lazio, arrivata ieri la terza sconfitta di fila, la quarta nelle 6 partite post lockdown, con qualche problema evidentemente di compattezza, anche se poi è stata smentita la notizia della lite post partita tra Cerbi e il medico sociale, con qualche voce anche della possibilità di un maxi ritiro di una settimana imposto da Lotito. Io non so Stefano se hai notizie in merito. Ma è sicuramente la situazione è molto tesa, è molto nervosa, e questa è una conseguenza dei risultati, non è la causa dei risultati. La causa dei risultati probabilmente è, anzi sicuramente, è determinata da un crollo fisico atletico da parte della squadra, e questo ha creato un nervosismo. La società ha smentito la lite tra Acerbi e il medico responsabile medico Ivo Pulcini. In realtà un confronto abbastanza duro c'è stato al termine della gara di ieri, ci sono dei contrasti interni anche per l'arrivo di un nutrizionista, diciamo, il cui operato e i cui consigli lasciano più di un dubbio a qualche componente del gruppo, e il ritiro è una possibile soluzione che non sorprenderebbe. Vedremo se nelle prossime ore potrebbe scattare. Sì, fa un po' sorridere per mille motivi, partendo dal fatto che stiamo parlando di una squadra che ha fatto una stagione straordinaria. Allora, rapido giro, partendo sempre da Stefano Agresti, ma il problema della Lazio è più di testa o di fisico? Perché ad esempio, se io ripenso ad Atalanta-Lazio, dico che la Lazio è uscita molto meglio della Juventus dal confronto con l'Atalanta, anche se poi una ha perso e l'altra ha pareggiato. E allora mi viene in mente che quella sera si sia spezzato qualcosa a livello di testa, Stefano. Ma no, guarda, per me il problema è fisico, perché la squadra non sta in piedi. Il problema non sono i titolari che non ci sono, perché poi alla fine di titolari non ne mancano moltissimi. Il problema è che quelli che giocano proprio fisicamente non ce la fanno. Penso a Leiva, che è riconoscibile assolutamente, ma anche a Cerbi, Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, vanno la metà degli altri. Ieri Sassuolo ha surclassato la Lazio, innanzitutto dal punto di vista atletico, a mio avviso. Carlo? Ma guarda, i giocatori che ha citato Stefano sono la chiave. Cioè, la Lazio si reggeva sulla stella meravigliosa di questi 4-5 giocatori che sono un po' meno uguali degli altri. Cioè, sono la chiave di questa squadra. La Lazio è rimasta nello spogliatoio di Bergamo, è finita quell'alchimia quasi magica che l'ha accompagnata normale che ci siano degli scazzi quando le cose non vanno bene e allora magari ci sono bisticci, battibecchi, ritiri e queste cose qui. Il rimpianto, Pierluigi prima diceva, vabbè, consideriamo cosa ha fatto la squadra, il rimpianto però è naturale, è normale, certo. Perché... Certo. Vai Pier. Certo, a parte che aspetterei ancora Sassuolo Juve, Udinese Lazio e poi l'ascolto diretto prima di dare un verdetto definitivo, però è chiaro che la china è molto precisa, è veramente molto precisa, i rimpianti sono tanti perché insomma in una settimana in cui la Juve ha fatto un punto e si poteva anche immaginare che perdesse qualche punto fra Juve fra Milan e Atalanta, la Lazio ne ha fatti zero con Lecce e Sassuolo, con tutto il rispetto, poi Sassuolo sta benissimo. No, io credo che sono d'accordo con Stefano, ieri primo tempo l'ho sentito alla radio perché stava arrivando a Torino, il secondo tempo l'ho visto. Insomma, è una squadra, dal punto di vista fisico il Sassuolo aveva molte più risorse. Ieri il Sassuolo ha fatto turnover, pensando anche alla partita contro la Juve. Soprattutto, certo. Poi li ha messi dentro nel secondo tempo, ha avuto il suo ruolo. Quindi oggi la Lazio quella profondità della rosa che ha il Sassuolo non ce l'ha, e questa è la verità. Detto questo, che ci sia stata la discussione è quasi sano. Io mi ricordo la famosa discussione tra lo Tito Inzaghi catturata da un video, sì, in ritiro, Simone, tu devi fare quello che dico io, e sono andati avanti tranquilli. La forza della Lazio in questi anni è proprio che si discute, che qualche volta si litiga, che c'è una catena corta di comando, che ci sono 4-5 persone nei ruoli chiave, che quando ci sono i problemi si affrontano. È chiaro che in questo momento la tendenza è una tendenza al ribasso, però penso che a livello ambientale ci debba essere, adesso non so come andrà a finire, ci debba essere grande fierezza, sì, grande orgoglio, ci debba essere Pier la consapevolezza di quello che è stato fatto. Siamo sotto GR, allora fatemi salutare Pierluigi Pardo, ciao Pier, a domani. Saluto. Anche Stefano Agresti, ciao Stefano. Ciao a tutti. Mi tengo ciao. Carlo, e vi racconto che il Genoa ha sbagliato un calcio di rigore due minuti fa, rigore concesso per un atterramento di Cassata, rigore tirato malissimo da Iago Falk che di fatto l'ha consegnato al portiere della Spalletti. Dunque 39esimo minuto, si resta sull'1-0 per il Genoa, il Genoa ha avuto il rigore per andare al raddoppio. Noi ci fermiamo, quando torniamo processo alla Ferrari per la Formula 1 e poi le parole di Antonio Conte, e andiamo anche verso Napoli-Milan di questa sera. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943, Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino, il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchesi, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Eco bonus, sisma bonus, super bonus. I tuoi crediti da bonus li liquidiamo subito. Registrati su bonuschiaro.it. E tu, vuoi comprarli? Registrati su bonuschiaro.it. Il primo sito per cedere e acquistare bonus subito. bonuschiaro.it. Salta sulla tua nuova Jeep e vai. Ma se la metti in pausa, parte il risparmio. Per te nasce Jeep Miles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, noleggia Jeep Renegade da 249 euro al mese, anticipo zero e servizi inclusi fino al 31 luglio. Info su jeepmiles.it. Investi in grandi progetti immobiliari in aree di pregio ad alto potenziale con Concrete Investing, il crowdfunding immobiliare italiano, e finalmente accedi ai ritorni riservati ai grandi investitori. Concrete Investing, investi nell'immobiliare con ritorni concreti. concreteinvesting.com. Lasciati trasportare dalle emozioni in luoghi pieni di intensità e bellezza. Umbria, una terra meravigliosa che ti fa sentire bene. Umbria, bella e sicura. umbriaturismo.it. Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Io ti conosco, Ti piace seguire tuo figlio in bicicletta mentre si diverte con lo skateboard? Quest'estate scegli un'assicurazione auto o moto generali e avrai inclusa anche l'assistenza bici di Europa Assistance Italia. Scopri di più in agenzia e prima di sottoscrivere leggi il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma rileggi i giornali. Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisys. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisys. Omnisys. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisys. Tutti convocati. Partenza così così per Sebastian Vettel, che vede già negli scarichi Charles Leclerc con Bottas che prova a tenere lì la posizione. Wow, contatto quarta delle due Ferrari. Incredibile, incredibile. E vediamo come escono e se escono. Sì, l'ala posteriore di Vettel è danneggiata, la sua gara è finita. Vediamo come concluderà questo passaggio, se lo concluderà o se deciderà di andare ai box. Vai box per Charles Leclerc. Che disastro. Che disastro, sarà una settimana bollente. Bollente a Maranello. Già un weekend difficile è diventato completamente nero. Credo, così vado a memoria, il peggior weekend nella storia recente, bypassando di molto anche il 2014, già disastroso, nella storia recente della Ferrari. Allora, apriamo il processo alla Ferrari, 1809-800-24-0024. Vi annuncio già che tra una decina di minuti apriamo i telefoni. C'è chi si sta prenotando, fatelo, 800-24-0024. C'è con me Carlo Genta e c'è Umberto Zappelloni. Ciao direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, vi faccio sentire il mea culpa di Leclerc. Certo, abbiamo visto arrivare qui al ring e la prima cosa che ha voluto fare è aspettare che Sebastian finisse di fare le sue interviste per dirgli che cosa? Per scusarmi, quando uno sbaglia io sono sempre onesto, oggi io non sono stato assolutamente bravo, non trovo altre parole, sono deluso di me e basta così. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere un'opportunità quando ce n'era e oggi forse c'era un'opportunità per fare meglio. Dopo sicuramente grandi punti era difficile con la performance che avevamo, però peggio di quello direi che non è possibile. Questo è tutta colpa mia, dunque prendo la responsabilità e così. Mi spiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare upgrade. Allora, questo Leclerc dopo la gara, il disastro della Ferrari sul circuito dello Spielberg, l'autoscontro tra Leclerc e Vettel dopo poche curve del primo giro. Allora, io parto dicendo, chiedo Umberto Zappelloni a Carlo Genta, dicendo che secondo me questo, che è il giorno più nero della Ferrari nell'epoca recente, di fatto è un disastro annunciato. Perché è chiaro che la convivenza forzata con Vettel toglie serenità a tutti, anche a chi come Leclerc insomma fa una manovra chiaramente sbagliata. Direttore, prima di tutto complimenti per la colonna sonora, perché profondo rosso mi sembra perfetto. Profondo rossissimo. Ma io devo dirti che io credo che la colpa sia ovviamente di Leclerc per quello che è successo in pista, però che alla base di tutto ci sia la colpa di aver progettato una vettura che non ha permesso a Vettel e a Leclerc di andare oltre il decimo posto in qualifica, quindi quando parti in mezzo allo schieramento i rischi aumentano a rotta di collo. E alla base di tutto c'è questo, anche il fatto di avere il ragazzo sotto contratto, di avergli fatto capire che un giorno potrà diventare campione del mondo, ma non avergli dato una macchina che gli possa garantire di fare delle gare decenti, perché lui ha fatto un miracolo la scorsa settimana, oggi è passato per l'asino della domenica facendo un errore clamoroso, ma un errore che è dovuto alla sua anche a quella che è la sua qualità migliore, quella di quando vede un barco provare a buttarcisi dentro, provare a cercare sempre il sorpasso, andare sempre di fretta, ecco, ha esagerato sicuramente, forse dovuto anche all'inesperienza, ma anche alla voglia di cercare di fare qualcosa con questa macchina che gli garantiva poco, dice, o faceva guadagnava posizioni all'inizio, oppure poi sarebbe stato difficilissimo. Oggi che non si sono ritirati in tanti, certo, non sarebbe andata molto lontana la Ferrari. Carlo? Guarda, comunque, ma il problema stava scritto sulla griglia di partenza e anzi dalle prove del venerdì. Questa Ferrari è una macchina che non va, è una macchina sbagliata e non vogliamo neanche pensare al fatto che con i regolamenti che sono stati congelati, con il fatto che questa macchina sarà anche quella dell'anno prossimo, verrebbe da mettersi a piangere. È chiaro che Leclerc ha fatto un errore da matita blu, lo ha ammesso, non credo che ci siano problemi di spogliatoio, se a questi volevamo fare riferimento, almeno in questa situazione specifica. Il fatto è che questa macchina, insomma, ha fatto una pessima figura per quell'incidente, per quel botto, ma io temo avrebbe fatto in un gran premio, che è stato quello della restaurazione, avrebbe fatto una pessima figura anche sull'ordine di arrivo, perché troppe sono le macchine che vanno più forti di questa rossa. Quindi sì, voi continuate a dire che non ci sono in questo caso problemi di spogliatoio, e per carità, anche il fair play con cui Leclerc si è preso le colpe indicano che in questo caso è tutto molto chiaro nella lettura. Io però, direttore, ho perso il conto di quante volte le Ferrari si sono scontrate Vettel e Leclerc negli ultimi mesi. Cioè, faccio fatica a immaginare che Leclerc, ad esempio, in quel varco che si è aperto non abbia visto anche il fatto che quel varco lo lasciava aperto il compagno scuderia, con tutto quello che significa per tensioni in queste settimane. Guarda, io vado un po' controcorrente, perché io dico che alla fine la Ferrari dovrà ringraziare Leclerc per la botta di oggi, perché almeno tutti parlano di questo incidente. Se no, con le due Ferrari in pista noi parleremo di un disastro, di una Ferrari doppiata, di una Ferrari che arriva a danni luce anche, non dico dalla Mercedes o dalla Red Bull, ma probabilmente anche dalla Racing Point, anche dalla McLaren, forse anche dalla Renault. Cioè, sentire Binotto che a fine Gran Premio ci dice dobbiamo capire l'origine del problema, forse è un problema di metodologia, cioè, ma cavolo, ma è gravissimo. Questi a febbraio avevano capito dalle prove di Barcellona che la macchina aveva dei problemi, se a luglio non hanno ancora capito qual è il problema, ma dove andiamo, ma dove vogliamo andare? Carlo? Sì, beh, il punto è questo, è perfetto il direttore, cioè il punto è questo qui, è una macchina sbagliata, si era capito a febbraio che non andava, i regolamenti non consentono tutti questi interventi, però Binotto ha detto la prima cosa è capire dove sono i problemi, beh cavolo, ci sono stati in mezzo lockdown e disastri compresi tantissimi mesi, appunto se adesso non hanno ancora capito dov'è l'errore, ma secondo me grosso modo l'errore hanno capito dov'è, solo che magari non è il caso di dirlo. Possiamo andare indietro con l'orologio a quella power unit di qualche mese fa, quando la Ferrari andava, non so se è il caso di fare questo tipo di etrologia. Questa macchina sembra completamente sbagliata da ogni punto di vista, dal punto di vista del motore così come dal punto di vista del telaio. Quindi prepariamoci ad una stagione in cui, ha ragione il direttore, meno male che c'è stato quel botto, sennò staremo a parlare di una Ferrari forse nemmeno a punti, a differenza di quanto ha detto Binotto. Oggi sarebbe stato importante fare punti, mettere punti in classifica, ma quali? Sì, ma sai, la sensazione, anche se Carlo, poi perdonatemi, la scena di due Ferrari che si speronano per la ennesima volta, ripeto, io torno su questo concetto perché è dalla metà della stagione scorsa che noi vediamo le Ferrari che vanno in contatto, scoppiano le gomme, si speronano una volta per il primo posto, una volta per il secondo, una volta per il podio, una volta nella pancia del gruppo come oggi, ma non è uno spettacolo commendevole, eh. No, però oggi devo dirvi che è stata figlia un po' del caso, insomma, Leclerc ha trovato il buco, è andato contro il suo compagno di squadra quasi per caso, non è che ha visto rosso, doveva passare. Ma in Ferrari costi, si riesce a fare una strategia prima di partire, cioè, mettersi seduti a dire due cosine. Io cioè ti dico, il problema grave è quando tu parti primo e secondo e non fai la strategia come ai tempi di Raikkonen e di Vettel, o anche l'anno scorso, poi capitò a Singapore, capitò a Monza, è capitato anche l'anno scorso. Ma tu ricordi scorso, le Mercedes scontrarsi recentemente? Beh, ci sono scontrate anche Rosberg e Hamilton, hanno avuto no, recentemente, dico da quando si è risolto il problema di Rosberg. Recentemente no, però oggi credo che tra i due piloti non ci sia poi un grande problema, perché Leclerc sa che tutta la Ferrari è per lui, Vettel sa che ormai è a casa, il problema di oggi sono le prestazioni di questa macchina e, come diceva giustamente Carlo, probabilmente questa macchina è stata pensata e progettata col motorone dell'anno scorso, col motorone che a Monza e poi a prima Spa aveva fatto vincere la Ferrari. Con quel motorone forse la Ferrari di oggi avrebbe anche dei buoni risultati. È sparito improvvisamente, non possiamo, il motorone, possiamo intuire sì, perché, ma non possiamo, non abbiamo la certezza, perché nessuno, è tutto segretato, nessuno ce lo racconta, però senza quel motore questo progetto è un disastro assoluto, ancora peggio di Leclerc e Vettel di oggi. Allora ci fermiamo perché c'è il traffico, poi ripartiamo proprio dalle parole di Binotto. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Non è una situazione banale, credo che la prima cosa da fare è capire l'origine del problema. Capire l'origine del problema, perché si può progredire solamente se uno alla base capisce insomma dove sta il problema stesso, che può essere non per forza di una parte sola della vettura, potrebbe essere anche un problema di metodologia, di progetto alla base, di concetto. Quindi è giusto in questo momento, in questa situazione, essere aperti, osservare tutto, guardare tutto, analizzare ed essere poi sicuri di prendere la direzione giusta. Ecco le parole di Binotto che sono state evocate prima. Intanto da 30 secondi è cominciato il secondo tempo di Genoa-Spal, con il Genoa che continua a condurre 1-0, gol al 24esimo di Pandev, e ricordiamo Genoa che ha sbagliato il 37esimo con Iago Falchi, un calcio di rigore. Allora, a proposito delle parole di Binotto, nel calcio c'è questo vezzo che spesso è un vizio, e cioè di fronte a un fallimento complessivo come quello che Binotto evoca e che si vede anche in pista, si cerca il colpevole e magari si procede a qualche sostituzione. C'è l'idea che possa capitare anche in Ferrari? Insomma, qual è il tempo che verrà concesso per provare a rimettere in piedi questa e la prossima stagione, direttore? Il problema vero è che la prossima stagione, forzatamente, per regole che la stessa Ferrari ha accettato, avendo la possibilità di non accettarle, visto che ha un diritto di veto, sarà molto simile a questa, perché le rivoluzioni sono impossibili avendo congelato praticamente tutto. Potrà cambiare il motore, ecco, almeno quello. Io credo che una vecchia gestione oggi Binotto rischierebbe molto, ma oggi mi sembra che la presidenza e anche l'amministratore delegato abbiano ancora fiducia in lui e in questo progetto di ragazzi giovani, in questo progetto a lungo termine. Però io dico che i tifosi si stanno un po' stufando di sentire parlare di progetto a lungo termine e di squadra ancora giovane, perché insomma in fin dei conti questo gruppo sta già lavorando con Binotto da un paio d'anni e non è che è stato stravolto negli anni di Arriva Bene, è più o meno quello, anzi è tornato qualcuno come Resta che era stato mandato via. Quindi sarebbe ora di capire se la Ferrari ritiene di avere all'interno tutte le professionalità con cui risalire. Io credo che ci sia, basterebbe smetterla di litigare all'interno, perché mi raccontano di un ambiente che è molto molto teso e che tra i vari reparti ci siano molti litigi. È quello che poi non porta da nessuna parte ed è sempre stato uno dei grandi problemi all'interno della Ferrari, che una personalità enorme come è stato Jean Todt riusciva ad esempio a sopprimere. Adesso purtroppo evidentemente manca la mano forte. Binotto forse è troppo solo lì in mezzo per riuscire a riportare l'ordine che è necessario per risolvere la situazione. Carlo? Sì, ma io credo che adesso non sia neanche il caso di partire per spedizioni punitive nei confronti dei responsabili. Certo vanno individuati, però è chiaro che non depone neanche a favore del lavoro di Mattia quello che ha detto. Cioè, se questa macchina è stata veramente sbagliata dal punto di vista del concetto, e vabbè, il responsabile del concetto, il responsabile dell'organizzazione è lui, quindi è chiaro che è un'ammissione di in qualche modo, in diretta direttamente una missione di responsabilità, così come ogni allenatore di calcio o capo di azienda deve prendersi se le cose non vanno bene. Il problema vero è che non è nemmeno a questo punto una questione di piloti, perché io credo che se la Ferrari è questa, neanche ci fosse Hamilton insieme a Leclerc sarebbe diversa la situazione. Quindi l'anno prossimo ci troveremo con una Ferrari che, se non viene corretta pesantemente, e non so quali siano i margini operativi, sinceramente è sbagliata, avremo Leclerc prima guida, Sainz seconda guida e una macchina che non va. E un'altra stagione davanti, e con questa fanno due la prospettiva, chiaramente non è una prospettiva piacevole. Intanto non abbiamo ancora parlato del ritorno, la restaurazione, il ritorno al dominio della Mercedes. Hamilton ha stravinto questo Gran Premio rimettendo le cose a posto, Bottas alla fine ha dato spettacolo insieme a Verstappen, o meglio Verstappen ha dato spettacolo anche se poi si è dovuto accontentare del terzo posto. Io non so se questo è un po', direttore, il tema che noi ci dobbiamo attendere da qui ogni settimana, compresa l'Ungheria, che dicono essere una pista diversa, ma sarà comunque una pista in cui la Mercedes parte favorita. Sì, non vedo chi possa fermare Lewis Hamilton nella sua caccia ai record di Michael Schumacher, perché mancano sei vittorie, potrebbe capitare a Monza o al massimo al Mugello. Speriamo di evitare di vederlo festeggiare il raggiungimento di Schumacher proprio in casa della Ferrari, quella che è stata casa Schumacher per tanti anni. Ecco, si pensava in queste prime due gare in Austria che la Red Bull, che aveva vinto gli ultimi due Gran Premi su quella pista, potesse partire e andare in fuga con un Verstappen scatenato. E invece la Red Bull è mancata, e io credo che questo sia un problema che vedremo anche nelle prossime gare. Sono mancate le prestazioni, non è mancato Verstappen, che oggi ha fatto la sua egregia gara e ha anche tentato di resistere a Bottas fino in fondo, però alla Red Bull manca qualcosa. Non so se è dovuto più al motore, credo anche al motore Honda, che non ha fatto quel passo, quel salto che si pensava avesse fatto lo scorso anno, e quindi è molto difficile pensare che qualcuno possa fermare la Mercedes, perché si diceva l'affidabilità, però oggi Hamilton è potuto andare in carrozza e non ha avuto problemi di affidabilità. Bottas ha avuto un problemino di affidabilità, almeno a giudicare dai messaggi radio che abbiamo intercettato, però poi alla fine ha superato anche lui Verstappen, quindi si va verso un mondiale ristretto, ma che rischia di diventare veramente un monologo della Mercedes. Molto noioso, i tifosi della Mercedes ci perdoneranno. Grazie, direttore. Grazie a voi, ciao, buona direttore. Serata a tutti. Ciao, grazie ad Umberto Zappelloni. Allora, 51 minuti sul cronometro Marassi, 1-0 per il Genoa sulla SPAL, continua a decidere il gol realizzato da Pandev al 24esimo. 800-24-0024 è il vostro momento. Giacomo da Palermo. Giacomo. No, volevo dire, in merito a quella questione riguardante l'assegnazione dei rigori, il numero dei rigori a determinate squadre, io ritengo semplicemente che riguardi la differenza di livello tecnico nel nostro campionato, quindi è inutile che l'allenatore dell'Atalanta lamenti. Cioè, è chiaro che il nostro campionato rispecchia, come penso altri, una differenza di valore tecnico con riferimento alla Juventus, e quindi è chiaro che alla Juventus vanno assegnati un numero di rigori superiori, perché è evidente che le squadre che hanno un livello tecnico superiore poi subiscono anche da parte delle altre questo numero di falli, quindi bisognerebbe valutarlo tenendo conto di questi numeri, cioè questo è il punto. Sì, ma una settimana fa Sarri si lamentava ad esempio della statistica per cui la Juventus era la squadra che giocava meno numero di palloni all'interno della propria area di rigore, pur aveva subito 10 calci di rigore. Io credo poco a questa cosa, ad esempio ieri sera, non so Carlo cosa pensi tu, a livello tecnico la differenza tra Juventus e Atalanta non si è vista, anzi parliamo di episodi, li abbiamo analizzati, però no, vabbè, è chiaro che la Juventus ha due giocatori, alcuni giocatori hors category, ma questo è scoprire l'acqua calda, così come scoprire l'acqua calda e dire che una squadra che ha molti giocatori offensivi, molti fuori classe che gioca in maniera molto offensiva, ha più rigori delle altre, sono tutti discorsi circostanziali, insomma. Secondo me in questo momento l'Atalanta come squadra di pallone è la migliore che c'è in Italia. La Juventus ha dei picchi individuali che nessuno ha forse in Europa, però insomma, mi pare che la differenza tra le due in questo momento sia da leggere, sia lì da leggere e da vedere, quindi Quindi no, non e soprattutto i due rigori di cui stiamo parlando, quelli di ieri, non nascono dal presidio dell'area di rigore avversaria. Sono episodici, mentre è molto bello il 2-0 realizzato qua in questo istante dall'Assessione su calcio di punizione, nono minuto del secondo tempo e raddoppio del Genoa Marassi contro la SPAL. Dunque 2-0 del Genoa sulla SPAL, risultato molto importante perché in questo momento dovesse finire così consente al Genoa di scavalcare temporaneamente il Lecce, portarsi a quota 30 punti con evidentemente una partita in più, ma uscire almeno per qualche ora dalla zona retrocessione della classifica. Mauro, provincia di Belluno. Mauro, buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Due cose da juventino. Prima, grossi complimenti all'Atalanta, una squadra fantastica. Io solitamente, se mi voglio divertire, guardo l'Atalanta in televisione quando posso. Seconda cosa, per citare il buon Pardo, che non ho sentito in precedenza, ma oltre al calcio come uno sport liquido, forse anche la valutazione degli episodi, dei falli di mano è abbastanza liquida, a seconda del vantaggio di chi li riceva, perché francamente ho letto stamattina il vostro collega Garlando sconcerti, che addirittura ha riesumato il gol di Turone e il gol di Montari. Onestamente non so, io ho letto le moviole, credo, di praticamente tutti i quotidiani, posso essermi perso qualcosa, e dentro le moviole non ho trovato critiche all'operato ieri di arbitro e VAR a proposito di quei due episodi, il che insomma chiarisce abbastanza quale sia stata la valutazione, che peraltro abbiamo espresso anche noi. Poi il discorso filosofico, Carlo, lo abbiamo fatto prima, è chiaro, no, ma che no, ma lo ha detto anche ieri, Gasperini, ieri, cioè, in Giovanni, qualche modo, chi meglio di lui? Esatto, cioè, l'idea è sia stata una partita decisa da due episodi totalmente avulsi dal resto della partita, ma ripeto, qui restiamo. Prego, Carlo. No, ma la miglior prova di quanto tu dici è che lo stesso Gasperini ha detto: so benissimo che in Italia questi episodi vengono valutati in questo modo, e più che altro bisogna domandarsi se il regime italiano di gestione della soprattutto dei rigori sia coerente con lo spirito del gioco. Ma non mi è sembrato di sentire questo spirito nelle parole di Gasperini, cioè lo spirito: ah, li hanno dati alla Juventus perché è la Juventus, li hanno dati alla Juventus in quel caso, li hanno dati contro l'Atalanta perché in questo momento storico quei rigori vengono fischiati tutti. Ora c'è a chi piace e a chi no, a me non piace, però mi sembra che il discorso sia più di questo tipo che non di campanile. Va bene, allora ci fermiamo, 57esimo, 2-0 per il Genoa sulla SPAL. Quando torniamo ci proiettiamo verso Napoli-Milan di questa sera. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è da spingere, c'è da farlo fino al 2 agosto. La cosa importante, la cosa che mi dà più soddisfazione, è che nessuno dei miei giocatori sta pensando, come sottoscritto, al 3 agosto, ma sta pensando solamente a dare il massimo fino alla fine. Ore 21:45, Napoli-Milan, anticipata da queste parole di Stefano Pioli. Saluto Luca Serafini, ciao Luca. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Ciao. Tu? Ciao a tutti. Allora, io voglio partire da questo concetto. È chiaro che questa sera a San Paolo si gioca molto di più il Milan rispetto al Napoli, che avendo vinto la Coppa Italia è già sicura del suo posto dentro il girone di Europa League e pensa alla sfida con il Barcellona di Champions League. E voglio però capire da Luca Serafini, che respira da vicino l'ambiente Milan, fino a quando possono reggere queste motivazioni che Pioli è stato capace di dare a se stesso e alla squadra. Beh, sai, questa è una domanda molto difficile, perché io penso che le motivazioni possano andare avanti fino al 2 di agosto. La realtà è la gamba, il fiato, perché il Milan, al di là di tutto, mi sembra in condizioni fisiche veramente eccellente, perché anche a Ferrara, dove ha avuto tutto l'unico mezzo passo falso di questa ripresa del campionato, però ha corso fino all'ultimo minuto, ha pareggiato nel recupero. Io penso che le motivazioni ci siano, vedo tutto un ambiente molto carico, molto gasato, chi si gioca al futuro, chi si gioca alla conferma, quindi l'aspetto più importante probabilmente è proprio quello fisico ancora prima che mentale. Chi si gioca, Carlo, anche semplicemente la propria reputazione, no? Come Pioli. Il problema, Giovanni, è che se appunto il problema è che siamo al livello delle motivazioni individuali, ma senza così che ci sia in gioco il futuro in questa squadra. Ha ragione Luca, io credo che queste motivazioni reggeranno fino alla fine della stagione. Il fatto è che il Milan onestamente naviga senza un obiettivo, e appunto proprio per orgoglio personale, per dignità personale. Milan, Napoli e Atalanta, oltre al Sassuolo, sono le squadre migliori di questo spicchio di ripresa, di queste prime partite, di questo pezzo di campionato, questo è indubbio. È evidente che, l'abbiamo già notato più volte in settimana, curiosamente il Milan, come l'anno scorso, ricomincerà tutto da capo, ricomincerà tutto da zero, ma senza una reale ragione. Questo è, credo, quello che disturba di più i tifosi del Milan. E poi oggi dall'altra parte c'è l'incrocio con Gattuso. Secondo te, Luca, al di là del romanticismo dei tifosi, al di là di alcuni pensieri, oggi davvero nel Milan c'è qualcuno che rimpiange Gattuso? Sì, penso proprio di sì, anzi sono sicuro di questo, perché mi confronto abbastanza di frequente, per esempio, con Donnarumma, che è un portavoce dei sentimenti degli spogliatoio, che è tuttora un po' a disagio per il futuro già segnato di Pioli. Sai, Gattuso ha fatto 68 punti con una squadra che era piena di infortuni, non aveva molti dei suoi titolari, che navigava fra mille problemi, si era inventata Piontek e Paquetá, che sembravano i due nuovi condottieri di questa squadra, e comunque il suo rapporto, come dimostra poi anche a Napoli, come li aveva avuti in precedenza, è straordinario con i giocatori. Il suo addio non è stato certo dovuto dallo spogliatoio, quindi sì, anche fra i tifosi, perché in buona sostanza l'ultima stagione delle ultime 7-8 in cui il Milan ha lottato veramente fino alla fine per la Champions è stata quella lì. Dopodiché questa ondata nuova, questa freschezza di Pioli va rispettata e stimata, perché lui su una, sembra quasi una ritirata di un esercito che sta già, io non parlerei, già che la guerra è finita, non parlerei di mancanza totale di motivazioni, perché l'Europa lo deve essere per il Milan, immagino che lo sia. C'è uno statura importante che oggi riguarda Romagnoli, riguarda Conti, riguarda Donnarumma ovviamente, Hernandez, Çalhanoğlu, Rebic, insomma hai già 6 o 7 dai quali puoi ripartire. E allora credo che tutto questo abbia costituito questa alchimia, unita evidentemente a una preparazione fisica molto adeguata. Sì, comunque Pioli sta uscendo come un gigante da questa situazione. Sì, sì, sì, è vero. Sì, ma come era uscito Gattuso, Giovanni, curiosamente? Cioè, alla fine ci troviamo di fronte a una nuova rivoluzione, e non a un restyling come sarebbe forse stato più logico, che è determinato non dai risultati, perché Gattuso come Pioli da questa squadra non potevano spremere di più in termini di fatturato, non da problemi di spogliatoio, perché entrambi sono perfettamente inseriti, era Gattuso ovviamente ed è Pioli attualmente inserito in quello spogliatoio, si va su altre logiche che in questo momento sono anche difficili da spiegare, no? Difficile da spiegare, magari no, da capire sì. Sì, a proposito di logiche difficili da spiegare o da capire, vi faccio sentire una delle mille esternazioni di Ibrahimovic in questi giorni. Ragnar non lo conosco e non lo so se arriva o no, perché da noi l'informazione non è arrivata. Invece è arrivato in giornale così, poi non lo so se è ufficiale o no. Poi, come ho detto l'altro giorno, se ero qua dal primo giorno sicuro che vincevamo scudetto, poi se sarò qua dal primo giorno prossimo anno sicuro vinciamo. È la promessa di Fosilino? No, non c'è promessa, non c'è garanzia, con questo devi parlare con Mino. Allora Luca, io faccio fatica, al di là dello strabordante carattere di Ibrahimovic, a comprendere anche il senso di una parte di queste affermazioni, mentre sono molto curioso di vedere questa sera a San Paolo ore 21:45 se il Milan reggerà anche alle bordate, perché questa è stata da questo punto di vista una settimana molto pesante. Guarda, io sì. Vai Luca. Sono cinico rispetto al futuro prossimo del Milan. Penso che dopo l'ultima porta sbattuta, mi permetto di dire in malo modo, da Boban, perché ha scelto tanto come tempistica e come maniera un'intervista a un giornale per liberarsi di tutti i sassolini e le scarpe, un modo che non ho trovato assolutamente né opportuno né elegante, la proprietà questa volta, per la prima volta, si è stufata. Perché qui, con tutto l'affetto, l'amore e la riconoscenza che io provo per Leonardo, per Boban, per Maldini, per Gattuso, mi mettono in panni di un fondo che gestisce da Londra il Milan e dice: benissimo, noi ci siamo affidati alle bandiere, non è successo niente. Sono 3 anni che galleggiamo tra il 5° e 7° posto, adesso facciamo noi. Adesso ci mettiamo lì uno che unisce tutte le componenti. Bisogna seguire quello che vuole, quello che dice questo qua. Quindi Gazzidis, quindi il direttore sportivo, quindi la squadra, quindi la società, si va tutti, si torna tutti in una direzione. Poi se Raggi sia capace, all'altezza, qualificato, questo lo vedremo. Però è una svolta societaria che è stata determinata dall'addio di Boban, che era il terzo, e adesso seguirà quello di Maldini, e siamo al quarto, con le porte che sbattono. E questi si sono stufati di gente che si rompe. Anche se Boban la racconta al contrario, e cioè sbatte la porta perché scopre in realtà di essere stato scavalcato già nella scelta di questo uomo. E questo era accaduto anche a Leonardo, questo era accaduto anche a Gattuso, hanno aspettato la fine della stagione in silenzio, Gattuso lasciando i suoi soldi sul tavolo, Leonardo non so neanche cosa abbia fatto, però hanno messo davanti il Milan al proprio orgoglio, al proprio scavalcamento. Hai scoperto di essere stato scavalcato a febbraio, benissimo, intanto hai un buono stipendio, tira dritto fino a maggio, non sapevamo che avremmo tirato fino ad agosto, e poi te ne vai e dici tutto quello che devi dire. Perché a febbraio, la vigilia della partita con la Genoa e con la Juve? Carlo? Quindi tu stai dicendo, Luca, che doveva fare quello che sta facendo Maldini? Sì, assolutamente. Maldini sta anteponendo il Milan a se stesso. Avrà già preso la decisione, avrà tutto il risentimento che hanno avuto anche Leonardo, che ha avuto Gattuso, che ha avuto Boba, però se sta lì zitto, si prende sul stipendio, a fine anno sarà. Che sta vicino alla squadra. Proprio zitto Maldini no, Luca, perché non comunque proprio zitto Maldini no, perché anche la dichiarazione che è detta all'Ansa su Ragnik, impari prima l'italiano e poi il rispetto, sì, e poi bene, tutto il resto. Parla di un esterno. Parla di un esterno che aveva fatto a sua volta un'intervista, sono d'accordo con te, ma io sto dicendo che non ha mandato tutti a quel paese. Lui ha risposto perché è interrogato, o comunque perché ha preso un'iniziativa rispetto a un'intervista di uno che parla come se fosse da Milano, e lui, secondo me, correttamente ha detto: scusami, qui ci sono dei professionisti che in una situazione catalittica come quella di marzo-aprile stanno comunque lavorando seriamente, potevi risparmiartene, non ci trovo niente. E infatti, come vedi, è passata sotto silenzio. Però, voglio dire, è anche un po' nel suo ruolo. Un giorno dovremo anche interrogarci su quello che ha portato Gazzidis, peraltro molto lautamente pagato, al Milan. Perché se tu investi di poteri, Boban lo scavalchi, quello si incazza, se ne va. Maldini lo scavalchi, vai a prendere Ragnik. Poi un giorno si dovrebbe arrivare anche a discutere il ruolo di Gazzidis in questo quadro. Sì, sono d'accordo, perché a me continua a risultare che molti sponsor o non rinnovano, si allontanano, che il fatturato non aumenta, e questo è sicuramente un argomento di discussione. Continuo a dire che noi rimproveriamo i giocatori per la conoscenza della lingua del paese dove vanno a giocare, poi un amministratore delegato è sul plenipotenziario che fa fatica ancora a parlare italiano. Però io aggiungo anche che Gazzidis si fonde il vigile urbano in corso Buenos Aires, cioè tutto il potere che viene dato mediaticamente a questo signore in realtà non è altro che il portavoce di quella che la proprietà ha fissato, paletti, budget, scelte di contrattuali. Quando c'è stato da prendere Ibrahimovic è stata la proprietà a dargli il ok. Quando c'è da seguirne altri, forse no. A me risulta, per esempio, che la proprietà è Gazzidis, Gattuso lo vuole sostenere. Mi risulta che in questa situazione terrebbero ancora anche Maldini, previo ovviamente un chiarimento con Ragnik, anche se poi nei fatti, se poi gli occhi di fare il poster e sì, chiaramente non ci sono le condizioni. Vi devo fermare perché c'è il traffico. Allora ringrazio Luca Serafini. Ciao Luca, buona partita questa sera. Ciao Luca. Ciao Luca. Siamo al 71esimo in Genoa Spalla. C'è il cooling break, 2-0 per la Genoa per il Genoa sulla Spalla. Ci fermiamo, le parole di Conte e chiudiamo con l'Inter. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Ho detto chiaramente, ragazzi, che ero soddisfatto molto della prestazione che abbiamo avuto contro il Verona, quindi che questa è la strada giusta, di continuare a fare quello che stiamo facendo, chiaramente cercando di limitare un pochettino degli errori. Penso che in quest'ultimo periodo comunque stiamo pagando a caro prezzo errori anche individuali e importanti, e è un periodo dove comunque appena c'è un piccolo errore veniamo puniti, però ripeto, per me la strada è quella giusta. Allora, questo Conte oggi, la vigilia domani di Inter-Torino, che paradossalmente potrebbe riportare Carlo l'Inter al secondo posto insieme alla Lazio, dopo tre giorni in cui si è paventato addirittura il rischio, arrivando quarti, di non fare nemmeno la Champions nel caso di vittoria contemporanea del Napoli in Champions League e della Roma in Europa League. Però insomma, questo calcio un po' pazzo d'estate di questa stagione racconta anche questo, cioè ogni tre giorni può cambiare uno scenario. Allora saluto Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport, ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Da poco in libreria, tra l'altro, con Le leggende dell'Inter, edito da Di Arcos. Mi sembra che la sintesi delle parole di oggi di Conte, Andrea, sia paghiamo errori individuali. Per chi si aspetta un'autocritica da Conte, credo sia il caso di ripassare. Sì, direi anch'io ho avuto questa tua impressione ascoltando le parole di Conte, che sicuramente conosce l'Inter e i suoi problemi meglio di me, messi insieme. È chiaro però che nell'ultimo periodo c'è stata una flessione che secondo me è attribuibile a qualcosa di più che a errori individuali, perché comunque ci sono stati molti problemi fisici, c'è un gioco che non è fluido come era logico attendersi, ci sono dei singoli che rendano meno di quello che è logico attendere. Ma queste parole sono in qualche modo anche una risposta al dibattito che si è acceso in queste giornate a proposito anche del futuro? Guarda, Conte è indubbiamente un grande allenatore, è uno che conosce il calcio perché è stato un grande giocatore e ora, ripeto, è un grande tecnico. Fare un processo adesso, secondo me, ma soprattutto da quello che ha detto, secondo lui non è opportuno in questo momento. Dal suo punto di vista è necessario blindare la qualificazione della Champions, che è abbastanza scontata vista la classifica, ma che va comunque raggiunta, e poi migliorare il piazzamento delle ultime due stagioni, che sono due quarti posti. Stando le cose così, secondo me in questo momento lui ha voluto cercare di fare, ha voluto fare il pompiere, e oggi secondo me le frasi che ha rilasciato sono quelle di un pompiere che cerca di spengere l'incendio che si è creato. Sì, tra l'altro siamo abbastanza abituati, no Carlo, a Conte incendiario nei post partita, è un po' più tranquillo prima. Però allora gli errori sono individuali fino a un certo punto, non sono nemmeno piccoli, perché abbiamo visto l'Inter subire dei gol che non sono da Inter, ma soprattutto non sono da squadra di Conte, quindi gli errori sono stati tanti, li ha commessi anche Conte, perché io faccio fatica, è chiaro, ci sono problemi fisici eccetera, a capire la necessità e l'opportunità di certe scelte che ha fatto Conte nella gestione degli uomini in questo momento. Detto tutto questo, mi sembra una totale follia mettere in discussione Conte perché non è riuscito a, così, a monetizzare l'idea di una impossibile peraltro rincorsa alla Juventus, perché è chiaro, ultimi 10 giorni pessimi, però da lì a sentire dire Conte deve andare via, guarda che sì, ma anche via se, Conte se credo sia, sia lui per primo, no, a mettere in discussione questo progetto, Andrea. Sì, lui non tanto mette in discussione il progetto legato a se stesso e alla volontà di vincere di Suning, mette in discussione le scelte che sono state fatte e che dovranno essere fatte in vista del futuro, perché lui ritiene che ci sia un gap molto importante con la Juventus e che questo gap sia accorciabile solo facendo un certo tipo di investimenti anche in tempi rapidi, perché sennò questo gap secondo lui resta, ecco, questa è la sua visione, la visione di un allenatore che in carriera ha sempre vinto, quindi è una visione rispettabile, però bisogna vedere se il progetto con le condizioni che detta o che detterebbe Conte è sostenibile in un anno in cui c'è stato il Covid, in cui tutte le società intercomprese hanno visto contrarsi i loro ricavi, ecco. Sì, quindi insomma, tradotto, bisogna vedere se Suning ha voglia ed è in grado di garantire, soprattutto ha voglia di garantire a Conte investimenti da tre cifre, 100-150 milioni di euro per fare quella rivoluzione che Conte ha in testa. Giusto per restare invece alla stretta attualità, domani gioca o no Lukaku, Andrea? Guarda, la squadra si sta finendo l'allenamento, ora non so se l'ha già finito, se lo sta finendo. Io penso che domani Lukaku potrebbe anche riposare, perché comunque giocando di 3 giorni, anche con un piccolo fastidio, quello di Lukaku era proprio un piccolo fastidio, però comunque rischi ci sono, e quindi secondo me potrebbe anche riposare. Fammi aggiungere solamente una cosa rispetto al discorso di prima: secondo me Suning e il presidente Zhang non hanno nessuna intenzione di mandar via Conte, ma proprio nessunissima intenzione, anche perché mandar via Conte costa una cifra spropositata. No, ma è una cosa che non avrebbe alcun senso, Andrea. Cioè, questo fammelo sottolineare, perché vorrei che questo fosse chiaro. Sì, sì, sì. Secondo me Suning e il presidente Zhang non manderanno mai via Conte. L'unico dubbio che mi resta è se Conte è ancora convinto del progetto, perché Conte è talmente bravo, è talmente un grande allenatore che, come lo ha fatto nel 2014, si è stretto la mano e si è salutato con la Juventus andando poi in nazionale, magari potrebbe farlo anche con l'Inter, ecco, questo non lo escludo. Quindi piuttosto che un esonero da parte del presidente Zhang, mi sembra che ci sia da tenere monitorata la volontà di Conte di continuare con questo progetto. Certo, una separazione consensuale. Grazie Andrea. Buonasera a tutti, arrivederci. Ciao, grazie ad Andrea Ramazzotti. Allora Carlo, noi ci fermiamo qui, 9 minuti alla fine di Genoa-Spal, con il Genoa avanti 2-0, e ricordiamo poi dalle 19.30 Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna-Udinese-Sampdoria, alle 21.45 Napoli-Milan, di cui abbiamo parlato. Lascio il microfono domani dopo il GR delle 14 per tutti i convocati. Ciao Carlo. Certo, ciao Giovanni, ciao, a prestissimo. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Valeria Bernardi e Roberta Frisani che si sono alternati in regia. Tutti i convocati weekend torna domenica prossima con me a partire dalle 17. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.